per cominciare, la forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua, musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. Eh sì, siamo tornati, buongiorno, ben ritrovati alla forma dell'acqua del venerdì, una forma speciale, uno special twice dopo la pausa del ponte del primo weekend di novembre. Siamo tornati con le nostre sonorità, gli stili, le visioni e uno speciale alchemico. Mi presento, mi ripresento, io sono William Piana, ma tutto ciò non potrebbe essere possibile, magia, esoterismo, alchimia, senza una bellissima fata di fronte a me, Elisa Iacobucci, ciao! Grazie Willy, ciao a tutti, buongiorno, vi do il benvenuto, non temete, oggi non siamo qui né per vendervi sacchetti di sale o neanche per cure miracolose, però torniamo alle radici, non sono radici per una pozione ma radici alla base di tutto, un po' la base degli elementi, quindi abbiamo terra, acqua, fuoco e aria, sono quattro sì, ma in realtà cinque, perché siamo un po' filosofi oggi, ci piace legarci ad Aristotele, a Platone e vedere l'etere, quindi un qualcosa di leggero che unisce il tutto e dà un moto, ma l'etere per noi in radio non poteva che essere la musica. È importantissimo, sarà il nostro quinto elemento che metterà insieme i quattro principali fondamentali, non solamente per una ricerca scientifica ma anche per la magia, per la tradizione, per la superstizione, per l'alchimia, insomma sarà una puntata che metterà insieme tutte queste caratteristiche. La playlist a tema ovviamente racchiude brani che hanno significati legati a queste realtà. Abbiamo cominciato tenendo i piedi per terra. Molto per terra, ricordiamo anche che questa è la nostra quinta puntata e quindi come quinto elemento iniziamo con il nostro amato Jamiroquai. Sì, che ci parlerà della terra alla quale dobbiamo vogliere bene, perché è assolutamente in corso un'emergenza e noi dobbiamo rispondere presente a questo SOS, Jamiroquai, Emergency on Planet Earth. Imagine dimora e luogo d'origine dell'umanità. È stato spesso venerata come un elemento simbolico dotata di una propria valenza spirituale da diverse tradizioni di pensiero. E beh, questo è assolutamente. Si dice che addirittura la Terra sia nata col rumore, un alito, rumore, col suono e con un alito di fiato praticamente, quindi non con un'esplosione, con un Big Bang o con questa quante altre magiche pozioni che possono avere, no, semplicemente con un soffio così, un che soffio. Sia stata generata con molta dolcezza. E insomma, questo è almeno quello che ci viene detto da diverse tradizioni e anche da diverse religioni. E sulla Terra, diciamo che è stata così tramandata la valenza di abitudine di paragonarla a una dimora, no? Beh sì, insomma, la madre Terra, e poi si sa che è anche riconducibile alla femminilità in quanto sia appunto, no, come un'incubatrice, un'incubatrice di vita, e quindi infatti anche tutte le statuette legate alla fertilità, quindi legate anche ai dipinti in cui la Terra e la donna venivano rappresentate insieme, esatto. Ma guarda un po' la presenza femminile bellissima, peraltro, come è importante anche all'interno di elementi primordiali. Il simbolo, questo triangolo rovesciato con una lineetta vicino al vertice, ci porta proprio a pensare di dover tenere la punta a terra. Eh sì, rimaniamo un attimo coi piedi per terra. Sì, assolutamente. Dalle tradizioni antiche si arriva a pensare che non solamente per la donna, ma anche per l'uomo mitologico, il famosissimo Prometeo, che fu il primo uomo fra i primi a essere della dinastia degli uomini, avesse plasmato tutti i suoi figli attraverso la terra. Eh sì, quindi... anche se c'era sempre questo contrapposto, cioè il cielo, perché appunto tutti cercavano sempre, no, di innalzare, di costruire qualsiasi cosa in modo elevato per raggiungere il cielo, comunque tutto partiva dalla terra, e quindi non potevamo anche noi iniziare da questo elemento importantissimo. Sì, elemento importantissimo, infatti, che noi stiamo un po' bistrattando purtroppo con inquinamento, trascuratezza, piccoli atteggiamenti quotidiani. Dal 92 Jamiroquai fa questo disco, tra virgolette, che oltre alla piacevolezza dell'ascolto metto insieme anche una leggera denuncia sociale, intitolandolo Emergency on Planet Earth, cioè è arrivata un'emergenza sul pianeta Terra, stiamo attenti e cerchiamo di volere il più bene possibile a questa nostra, come dicevamo all'inizio io e Lisa, dimora che ci è stata donata. Noi proseguiamo, perché a proposito di Terra, a playlist fatta io ho fatto un piccolo cambiamento. Ah, guarda, tu puoi fare tutto, Willy, quindi vai. Ho detto, ma come, c'è un gruppo che si chiama Madre Terra? Eh beh, allora non se potevamo. Poi guarda la copertina com'è, sono tutti belli, felici, ritratti coi piedi per terra, vicino alle radici di un albero. Quindi perfetto. Il titolo del brano è Apple Green, mela verde, che evidentemente con la terra ha delle attinenze molto molto evidenti. Apple Green, The Mother Heart, a fra poco per il rientro in diretta, perché vogliamo dialogare anche con voi al 333 1809 494. Abbiamo anche WhatsApp. We'll be right back. colors of the rainbow, orange petals in the rain, dragonflies along my way. Watch the crowd, they come and go. Where they're headed, heaven knows. White clouds, blue sky, golden sand in my hand. Jamiroquai, sempre i primi anni 90, fine anni 80, tornano sonorità funky, groove, Mother Heart, il disco The People Tree, il brano Apple Green. Quale miglior riferimento alla nostra madre terra e quale miglior messaggio che ti do, Elisa? Magari faremo un domani una puntata anche sul mio amato AC Jazz. Ah, come no, certo. Piano piano io la sto sempre buttandomi, ma la facciamo una volta una puntata. Sì, un movimento al quale io sono molto legato, fra etichette come AC Jazz stessa o Talking Load o Soul Society, insomma, vabbè, però non voglio prendere il predominio assoluto su questo Special Twice, perché giustamente è doppio e doppio deve rimanere, anche se gli elementi, altro che doppi, sono quadrupli, quintupli, sono infiniti. Sono infiniti, esatto, infatti il 5 è proprio un numero importante. Oggi è la nostra quinta puntata, abbiamo voluto inserire questi 5 elementi, tra cui appunto il quinto, quello musicale. E vabbè, insomma, vogliamo anche parlare ovviamente di ecologia, di qualcosa di sensibile che ci dovrebbe essere appunto a cuore. Infatti sì, dovete sapere che quest'anno l'Overshot Day, cioè appunto il giorno dove terminano ufficialmente le risorse rinnovabili che la Terra riesce a rigenerare nell'arco appunto dei 365 giorni, è già finito, cioè è già arrivato, perché è stato il 20 agosto e quindi siamo già in riserva praticamente. Il fuel sta accendendo la lucina della riserva. La spia è accesa. Pensate che già negli anni 90 era al 7 dicembre, quindi vabbè, 7 dicembre era già accettabile, però poi siamo arrivati. Poi sono nata io, non so, evidentemente ho prosciugato riserve idriche e alberi alimentari. Sì, esatto, però insomma, io volevo fare un appunto, perché magari, cioè io sono la prima, appunto, chi mi conosce lo sa che cerco di evitare ogni tipo di spreco, ma è più una cosa legata allo spreco che a salviamo il pianeta, perché in realtà chi dice salviamo il pianeta vuole salvare l'essere vivente, perché la Terra dopo i re glaciali ne ha viste talmente tante che di certo non sarà un po' di anidride carbonica a distruggerla. Però sicuramente è la nostra sopravvivenza che dobbiamo tutelare, e quindi è giusto che facciamo un passo indietro e vediamo un po' i nostri gesti quotidiani. Assolutamente, e ascoltiamo anche quelle che sono le terre rare. Sono molto rare perché non le trovavamo. Sì, infatti è stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Anche perché possibilmente supporti originali o in vinile o in CD, allo Special Twice, una caratteristica della nostra trasmissione. Vado nel mobilone dei CD e nonostante Elisa abbia una webcam collegata col mio salone, non è riuscita a darmi una mano, a dirmi guarda sono un po' più a sinistra, no, un po' più in alto, finché un bel giorno sono riuscito a trovarli finalmente, e quindi siamo pronti per le ascoltare. Voi siete pronti? Get ready allora. We'll be right back. tutti get ready a rientrare in diretta e dare un abbraccio e un salutone a Charlie Marchesini, uno dei primi fan della nostra trasmissione. Cosa sta combinando sulla nostra pagina Facebook? Ci sta ovviamente mettendo mi piace, la salutiamo, la ringraziamo. Se volete basta andare su Facebook e scrivere Special Twice e potete anche voi commentare e comunicare con noi in questa puntata speciale dei quattro elementi, anzi cinque, perché abbiamo inserito anche la musica. Noi abbiamo messo qualcosa di più, una playlist legata ai quattro elementi più uno. Quattro elementi più uno che guarda caso fa 5, 5 come la nostra puntata, la numero 5 dello Special Twice, escludendo quelle estive dello Special Summer, al quale siamo particolarmente legati. Sì, però purtroppo sai, la stagione, anche se in realtà è, si è allungata, che potevamo fare uno Special Twice fino a ieri, visto che c'era un bel calduccio, non si stava niente però, male. Però, per motivi di calendario abbiamo purtroppo raddoppiato. Però diamo l'importanza al 5, che è veramente presente in tutti i tipi di natura, a livello proprio geometrico. Infatti ricordiamo la stella marina a 5 punte, che le dita di una mano, le dita di una mano, anche di un pietro, assolutamente. E anche per esempio la classica forma della spirale delle galassie, che è anche all'interno di alcune chiocciole come forma geometrica, che anche lì deriva dalla moltiplicazione di 5 volte della stessa formula matematica, sapevo, che vedi, crea sei quella tu, spirale. Sei tu la strega scienziata, meglio dire fata, probabilmente, perché strega non è molto bello, ma è molto carino. Vabbè, dai, c'è stato Halloween da poco, va bene, ti perdono per però, questo. C'è anche l'uomo di Vitruvio. Esatto, sì, Leonardo da Vinci è riuscito, puntando il compasso nell'ombelico di un uomo, facendo un bel cerchio, si trova appunto il raggio perfetto. Sai che la statura di un essere umano è pari all'apertura all'aria? Se uno è proporzionato, poi beh, se, certo, diciamo, poi magari tipo io ho il busto più corto delle gambe, quindi magari se apro le braccia e risulta. Ma meno male che lungo. Hai il busto più corto delle gambe. No, diciamo però, che abbiamo le gambe molto lunghe. Esatto, quindi essendo molto lunghe si nota la differenza. Si nota la differenza. Sarebbe peggio il contrario. Sì, un po' storta. Però. Non tiriamo l'acqua troppo al mulino degli alti, e anzi, invitiamo tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori a inviarci un SMS al 333-180-9494. E voi state pensando, ma perché dovremmo? Sì, invece dovete, se vi fa piacere stare in nostra compagnia fino alle 12:30, potete, visto che il tema è legato alla tradizione, alle cabale, al mistero e quant'altro sia superstizione, anche, beh, voi ne avete qualcuna da parte. Ad esempio, Elisa, finché poteva, camminava senza pestare le vie di fuga delle piastrelle. Sì, sembravo più, appunto, avendo problemi proprio di deambulazione, in realtà, perché, sai, se trovi la mano tonnella piccola, avendo anche i piedi grandi, è un po' un problema. Facevi la ballerina in punta di piedi, ma guarda, c'è un campo minato in via Indipendenza. Sì, poi crescendo ho cambiato, ero fissata con i capelli rasati per l'effetto del tatto sulla mano, e quindi ogni volta che vedevo un ragazzo con i capelli corti dicevo scusa, e questo mi guardava male. No, io mi sa via. Che si illudeva probabilmente. Comunque, vabbè, dipende ovviamente. E tu, Willy, invece? Vabbè, io, come ho detto in precedenza, oltre a mantenere perfettamente allineate le ciabatte ai piedi del letto prima di prendere sonno, ne ho un'infinità. Posso dirti che non trasmetto mai in diretta con degli indumenti viola, posso dirti che non posso vedere dei capi di abbigliamento che spuntano dall'armadio o una porta socchiusa. Quindi guarda, possiamo andare avanti fino a... è per quello che magari sei in casa come una trottola, perché devi chiudere tutti gli stivi, i cassetti, le porte. Sì, infatti Laura regolarmente dice hai ancora molto prima di venire a dormire e spegnere la luce, perché io chiudo le porte, metto dentro gli indumenti ai cassetti. No, lasciamo stare, perché mi mandate a psicoanalizzare. A proposito di psicoanalisi, anche ovviamente la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco hanno un significato a livello inconscio. Infatti, Freud nel suo bel libro, che analizza appunto i sogni, dà un significato a ogni elemento. L'abbiamo analizzato alla terra. La terra è un po' un'accettazione della vita, e quindi può essere anche la cosa opposta, quindi una negazione della propria vita, sognare la terra. Ma pensa un po', invece porta nella tradizione emiliana contadina, da quale io provengo orgogliosamente, la sognare terra porta male? Soprattutto mossa, arata. Ah. Porta malissimo, significa... significa che non si fa più parte della terra, che non ci sarà più coltivazione, ma non per cause climatiche, ma non per cause naturali più tragiche. Vedi, perfetto. Ma stiamo parlando, ma torneremo a parlarne ovviamente di terra. Adesso è il momento di dare spazio a chi feconda la terra. L'acqua, altra fonte di vita importantissima, perché una piccola goccia può diventare qualcosa di atroce, perché la costanza, si sa, la goccia spacca la roccia, però è anche una cosa dolce.

Sui 103.1 di Radio Città Fujiko, sotto la nostra voce ancora la canzone The Battle, il grandissimo Gil Scott-Heron, insieme al fido flautista collaboratore Brian Jackson, alle 11.07 minuti. Io temo però così, cara Elisa, che la bottiglia di Gil Scott-Heron non fosse piena d'acqua. Purtroppo no, anzi qualcosa di alcolico, molto alcolico. Sì. E infatti anche lui era proprio vicino a temi anche non solo ovviamente ecologici, ma anche insomma sociali, come molto, appunto l'alcolismo. Beh, e lui era nato il 1 aprile, un capricorno, quindi un segno di terra. Quindi o ariete. Capricorno. 1 aprile, ariete, capricorno. Non lo so, non approfondiamo. Se vuoi ricontrollo. Già si vede quanto noi siamo specialisti negli oroscopi. Esatto, no? Esatto. Beh, siamo molto più, diciamo così, legati alla tradizione in quanto cabala, seppure semplice, come dicevamo in precedenza. Piccoli gesti quotidiani che, per un motivo molto spesso non giustificato, tendiamo a ripetere. Cabala, tradizione, ripetizione, infatti si dice soprattutto in momenti di sport, in competizione così: aspetta, mettiti le scarpe in un certo modo perché dobbiamo rispettare la cabala. La cabala, esatto. Ogni gesto ripete, una specie di portafortuna, insomma. Sì, certo. Una cosa scaramantica. Una cosa scaramantica. Quindi, che tutti sì, si nascondono, no, io non ci credo, noi non ne voglio sapere meglio. Però siamo sicuri che ognuno di voi ha un gesto scaramantico, sì. E se ce lo volete dire basta scrivere al 333-180-9494 e siamo anche su WhatsApp, quindi volendo avete la doppia scelta. La scaramanzia che non si paga nulla. E non si paga, sì. Quindi siete ancora più scaramantici, non volete usare il telefono, c'è comunque Facebook con il nostro special Twice. Esatto. Siamo forniti, c'è tutto. Assolutamente. Bene, siete anche i benvenuti, non solo siamo forniti e noi proseguiamo con la nostra playlist, ma soprattutto con le nostre tematiche, perché l'acqua e la terra, diciamo così, le abbiamo toccate, le possiamo tranquillamente accogliere, possiamo pasticciare con la terra o prendere una manciata d'acqua, seppure trattenerla è molto difficile, molto più difficile trattenere l'aria. Eh sì, assolutamente, anzi trattenere il fiato a volte è difficile. No, quello proprio è impossibile. Però anche l'acqua ha un valore simbolico molto alto a livello sia di religioni, infatti l'acqua è sempre presente come rituale. E lo sai che addirittura hanno fatto una scoperta scientifica tra virgolette, perché diciamo che è possibile riprodurre il laboratorio, però deve avere una base teorica che l'affianchi. Sto parlando di Luc Montagnier, che è lo scopritore dell'AIDS, che ha fatto un'altra scoperta davvero sensazionale, perché se si verificasse davvero che ha una base scientifica potrebbe rivoluzionare. E adesso mi sento un po' quella di Voyager. Ho letto su Focus che l'acqua contiene una traccia di DNA che, come ogni cosa nel nostro mondo, ha una vibrazione. Questa vibrazione può essere trasmessa da una boccetta di acqua all'altra, quindi una sorta di teletrasporto acquatico. Sì, è veramente una cosa estremamente misteriosa, perché una ricerca sonora addirittura, questo l'ho visto con i miei occhi, sperimentale ovviamente, guardavano delle particelle d'acqua e mandavano vocalmente, immergendo la testa di una persona dentro l'acqua, gli facevano dire diverse parole del tipo ti amo, ti voglio bene. Andavano al microscopio e vedevano le figure di queste particelle che cambiavano, che rimanevano esattamente, come si dice, esattamente lineari, simmetriche, belle da vedere. E invece con andava le parole dentro e lui diceva ti uccido, non ti voglio più vedere, delle parolacce così, e queste particelle prendevano delle forme incredibilmente brutte. Infatti l'hanno fatto anche tipo con la musica classica e l'heavy metal, le hanno visto. Non che oso immaginare. Sapete già, insomma, il risultato. Sì, vabbè. Ok, vabbè, insomma, ho fatto ascoltare all'acqua John Coltrane e Gigi D'Alessio. Quale sarà la reazione? Anche l'acqua dice basta, mi prego. Assolutamente. Quindi l'acqua come essere vivente a questo punto, come mistero, come elemento di fecondità, attributo dell'umido e del freddo, che venivano contrapposti dunque al fuoco, al secco e al caldo. Viene identificata con il punto cardinale dell'ovest e ha giustamente un aspetto femminile. Anche l'acqua, lei, ma mi sa che un po' dove vai, sì, vai, dove la donna la vedi, anche la perché insomma il fuoco, la passione, la terra, la fertilità, l'aria, la delicatezza, l'acqua. La donna è ovunque, insomma, Willy, c'è poco da fare. Ma io ne sono ben contento, sai, mia cara. Assolutamente sì. 11 minuti, intanto che aspettiamo i vostri sms per quanto riguarda le tradizioni, le cabale, mistero, alchimia, superstizioni. Pensa che addirittura i primi scienziati, se così si potevano chiamare, addirittura venivano chiamati alchimisti, neanche, volevano produrre, mettendo insieme o catturando questi elementi grazie alla commistione di una pietra misteriosa, far diventare oro qualsiasi cosa. Remida si provava. Si prova anche Remida, ma alla fine è finito con un bel paio di orecchie d'asino, essere troppo, diciamo così, un pochino troppo vanitoso. Andiamo avanti, perché nella nostra playlist è venuto il momento di anticipare quello che è l'aria. Eh sì, anzi, qui possiamo fare un ottimo collegamento acqua-aria, da un album all'altro. Brava. Assolutamente, perché Liquid Spirit innanzitutto è il titolo dell'ultimo lavoro di quello che probabilmente per noi come Special Twice sarà il disco dell'anno. Sì, assolutamente, io voto. Sì, abbiamo decretato William Piana e Elisa Iacobucci come Special Twice, che porteranno per i Fujiko Music Awards Liquid Spirit di Gregory Porter come disco dell'anno. Ed è questo. Cosa ascoltiamo? Ci ascoltiamo Wind Song. I try all day to not write songs that sound cliche when I sing songs of love to you, but somehow I always do. And then I realize after a million years the wind song goes along. That's how I wanna be until eternity. The wind song goes along. I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will, so if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh yes, I'm stuck on you. And then I realize after a million years the wind song goes along. Oh yes, I realize after a million years, the wind song goes along. since you came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will, so if my song repeats, know that I'm stuck on you. I'm stuck on you. And then I realize after a million years, the wind song goes along. The wind song goes along. The wind song goes along. Oh. The wind song goes along. E ritorniamo sui 103.1 con questo Wind Song di Gregory Porter, dal suo nuovo album Liquid Spirit. E l'album invece precedente era l'album Water, quindi perfetto per la nostra puntata di elementi. Abbiamo l'acqua, abbiamo il liquido, abbiamo il vento, c'è tutto. Sì, lui evidentemente è più legato, e si sente anche dalla sua scrittura, a qualcosa di spirituale, di elevato e di impalpabile. Ha preso proprio i due elementi più delicati. Sì, in un'intervista diceva addirittura che quando pensa la musica la immagina in termini di colori, quindi lui chiude gli occhi e associa ogni vibrazione a un colore e quindi ha questa... questo miscuglio di sensazioni. È una cosa molto bella, perché si sente anche dal suo disco, anche dagli altri lavori, qualcosa che riesce a mettere insieme una scrittura non banale con qualcosa nello stesso tempo di facile fruizione. Sì, armonico, facile fruizione, ma di buon gusto, ma di, buon di livello gusto. Sì, sì, magari facciamo una compilation e ci mettiamo dentro anche il buon Gregory Porter. Ricordo, per i vostri SMS a proposito di Cabale Tradizioni, e ci aggiungiamo anche il vostro disco preferito dell'anno. Sì? E per soli un SMS vi offriamo anche un mi piace così su una vostra pagina a caso. Esatto, patteggiamo un mi piace, un mi piace, un messaggio. No vabbè, scherziamo, anche perché non possiamo arrivare a questi livelli. Sì, 333 180 9494 per i vostri SMS, la pagina Facebook Lo Special Twice, quinta puntata, 5 sono gli elementi, anche se il quinto lo abbiamo aggiunto noi mettendoci dentro un elemento di sonorità trasformato nella nostra playlist. E quindi si parte, o almeno siamo già partiti da un'oretta circa, abbiamo sviluppato un discorso che va a ramificarsi in tutto ciò che può essere la tradizione, la magia, l'esoterismo, la filosofia. Sì, e poi tra l'altro voglio ricordare che abbiamo scelto come quintessenza l'etere, quindi appunto la radio. Però la quintessenza a livello di chi è un fisico è la magia oscura, o comunque una specie di forza oscura, come tipo i buchi neri, che però potevamo poi fare una specie di puntata da setta satanica, non era il caso. Tra l'altro il 5 è il pentacolo. Il pentacolo, che è un segno evocativo. Sì, è il pentagono che tutti conosciamo molto bene. Sì, penthouse, voglio andare avanti con tutto ciò che può essere 5. Beh, ce ne sono del resto tantissimi. E tra l'altro, per rimanere in tema anche di psicanalisi, come dicevamo prima e come ci ricorda anche Charlie che ci sta seguendo, oggi è l'anniversario di Rorschach, che era appunto il creatore di quel test con le macchie che sicuramente qualcuno di voi avrà subito in età scolare, o comunque avrà più o meno visto, e serviva appunto a capire la personalità di una persona. Ti faccio vedere macchie che sembrano delle farfalle, se ci vedi una farfalla va bene, se ci vedi sempre la stessa identica cosa un po' particolare, magari hai dei problemi che è meglio snocciolare. Sì, per usare un termine più neutro. Io del resto ho visto la simmetria delle figure, quando mi facevano quel test vedevo sempre delle farfalle, però perché mi ricordavano le ali aperte di un animale esotico. Essendo io molto legato agli animali, probabilmente era il primo rimando. Quando mi hai detto chi pensa sempre alla stessa cosa ha qualche problema, ho detto oddio. No, però ovviamente che non abbia nulla a che fare, tipo se tu mi fai vedere sempre degli schizzi che sembrano delle farfalle, io ci vedo sempre, non lo so, una donna morta certo. o una donna. Mio padre, per dire, vuol dire che ho una fissa, e quindi è meglio snocciolare. Tornando tornando anche a proposito di elementi, ma importante il discorso di Rorschach, si chiama, perché è un nome impronunciabile. io l'ho conosciuto come personaggio supereroe. Ah. Era questo supereroe tra il bene e il male che faceva parte dei Watchmen, che è questo. Ah, è vero, adesso come che lo dici. È il fumetto più bello che abbia mai letto. Il film altrettanto molto bello, secondo me. Del resto non si riesce a fare così un capolavoro, un altro identico, però sì. Insomma, c'è andato molto vicino ed era questo personaggio di un cinismo e di una cattiveria incredibile, però a modo suo nella giustizia, nel suo modo di vedere le cose. Evidentemente è stato preso proprio dal nome da questo psicanalista, perché Rorschach è matto, è un folle, un sanguinario, che guarda caso ha preso appunto spunto dalle teorie di Freud, che anche lui insomma aveva, sanissimo non era, aveva le sue paturnie. Pazzia, sangue e fuoco, è il momento di parlare dell'elemento che a me fa più paura. Il fuoco? Sì. Io sono molto spaventato dal fuoco, purtroppo. Vabbè, ma quella è una cosa arcaica. Se ha paura di volare, se ha paura. Cioè, sono è il rosso, come sì, se un toro invece di attirarti. E dire che con rosso vado abbastanza d'accordo, per altri motivi, ma non approfondiamo, questo si sa. Però il fuoco spaventa, il fuoco brucia. Però il pericolo. Quindi il pericolo. Non sei uno sprezzante del pericolo. Sono un animale. Gli animali, sai, gli uomini preistorici mettevano E l'immagine del rosso infatti ricorda appunto il pericolo, e l'immagine del rosso richiama ovviamente nel codice stradale o comunque a livello inconscio sempre qualcosa di da stare attenti. Di solito si dice anche come luogo comune scherzare col fuoco, ma il fuoco è anche passionare, e i Doors hanno fatto un brano che proprio calza a pennello, e allora lasciamoci riscaldare dai Doors. Restate con noi, 103.1. Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Che scalda davvero i cuori, i Doors, un rock psichedelico di un storico. È un storico assolutamente, già dal 65 hanno creato queste sonorità che sono giustamente rimaste nella storia e hanno anche creato un tipo nuovo proprio di jazz fusion per i tempi. Questa mia è nuova. Sì, ah, sì. Negli anni 60 furono i primi a sperimentare anche del jazz fusion. Ah, pensa un po', guarda quante ne imparo oggi di nuove dei Doors, che diciamo così, tanto per creare un po' di polemica, a me non hanno mai colpito più di tanto. No? Non sono mai stato un loro fan, però, cioè, per carità. Sì, vabbè, magari non può piacere il genere, però degustibus, sì. Come comunque, si dice, no? Grandi musicisti, grandi musicisti, ma senza... ma questa è una questione proprio unicamente di come ti arriva all'orecchio. Per il resto non si discute, la qualità musicale è estremamente elevata e ci mancherebbe altro. Come elevati sono gli elementi di cui stiamo parlando in questo momento, dalle 10.30 fino alle 12.30, per tenervi compagnia nella forma dell'acqua in formula speciale, special twice, raddoppiata, all'interno di Radio Città Fujiko, elemento fuoco. Poco in questo caso, light my fire, significati sono milioni, accendimi, stimolami, rendimi, diciamo così, ancora più dentro la tua vita, dentro la tua passione, e quindi chi meglio del fuoco e del calore riesce a metterci un po' di pepe, un po' di piccantino. Sì, è assolutamente il fuoco, è uno dei quattro elementi della filosofia greca antica, che si chiamava addirittura Efesto, il dio che produceva modellando il fuoco questi strumenti bellissimi per riuscire a loro volta a lavorare o anche ad andare a partecipare a delle guerre per questi dei misteriosi che vivevano nell'Olimpo. Ofesto, il famosissimo vulcano per i latini, che viveva all'interno di queste fucine misteriose e riusciva a procurare, modellando il fuoco, si può quindi definire il signore tra virgolette di quello che era questa realtà o questo elemento incontrollabile il più delle volte, ma ancora più mitologico e ancora più misterioso come legame per quello che è il fuoco, fu il furto che fece Prometeo, no? Prometeo che rubò la scintilla e fu severamente punito dagli dèi. Ma infatti è molto bello vedere come si veniva in collegamento con questi elementi, delle vere e proprie divinità, per spiegare queste situazioni incomprensibili, diventavano infatti degli dèi veri e propri. Quando non si riusciva a dare spiegazione, improvvisamente, ah no, è una cosa superiore, quindi è un dio. È un dio, e infatti ogni cultura poi ha dato la sua versione. Sappiamo che sempre legato al 5 e nelle scienze vediamo la cultura e la medicina cinese, che inserisce proprio terra, acqua, metallo, fuoco, e ogni elemento corrisponde una parte del proprio corpo, quindi c'è la parte dell'ombelico. Ogni malattia può essere associata a un elemento, è una cosa molto molto curiosa, legata ovviamente proprio all'anima e alla malattia, dicendo appunto che sono interconnesse, quindi se stai male anche di animo si può ammalare anche il corpo. Assolutamente, men sano in corpore sano, al contrario invece dicevano i latini. Ma quanto siamo colti grazie allo Special Twice. Li abbiamo trattati tutti gli elementi, li abbiamo trattati tutti e cinque, tu dicevi di metterli assieme, e veramente a volte metterli insieme è una casualità, una piacevole casualità, come uno fra i brani più belli di cool jazz mai stati scritti per tutti i tempi, e questo Take 5. Sono 5, la quinta puntata, Take 5 ovviamente non può mancare, potrei tenervi qui al microfono all'ascolto per un'ora se dovessi parlare di questo brano. Io faccio così, adesso vi faccio ascoltare la parte cantata di Take 5 con Carmen McRae e il grandissimo Dave Brubeck, poi rientriamo in diretta e spieghiamo l'origine di questo Prendine 5. Won't you stop and take a little time out with me? Just take 5. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know how eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take 5, just take 5. single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five. Just take five. Just take five. Just take Allora torniamo in diretta allo Special Twice di Radio Città Fujiko. Cara Elisa, abbiamo lasciato con Take 5 e siamo tornati con Take 5. Sì, sempre Take 5, due versioni diverse, due basi create così, quasi casualmente sì, esatto, sì. Un nuovo 5 quarti, un nuovo ritmo improvvisato grazie a Dave Brubeck. Paul Desmond l'ha scritta, Dave Brubeck l'ha affinata. Ah, okay, ufficialmente okay. È di Paul Desmond e ancora più ufficialmente nasce per caso, scritta, non scritta, buttata giù dal batterista Joe Morello, che alla fine di un concerto doveva trovare il modo per creare una base per poter fare e permettere a Dave Brubeck di presentare i musicisti per l'uscita. Cominciò a giocare su questo 5 quarti. Paul Desmond si mise lì così e iniziò e Dave Brubeck, ma pensa a te com'è bella questa, ed è nato così. Vedi, probabilmente questo, pensa, non voglio fare della filosofia, però ci potrebbe portare a pensare che anche noi siamo qui per caso. Quello chissà, magari l'universo, i pianeti hanno voluto questo, muovendo chissà quali energie. Perché del resto poi è un capolavoro assoluto Take 5. Noi siamo venuti peggio. Ma beh, se ci metti di fianco a Take 5, noi però siamo già venuti un po' peggio come nascita casuale, voglio dire. Però assolutamente però importante per il movimento del cool jazz, il grande musicista Dave Brubeck, pianista scomparso non da tantissimo, fra l'altro. Ricordiamo dischi bellissimi, partecipazioni importantissime, sempre vicino al fido alto sassofonista Paul Desmond. Completavano il quartetto Joe Morello alla batteria e Eugene Wright al basso. Anche questo ritmo è molto sensuale molto. Anche come appunto dicevamo l'acqua, infatti l'acqua a livello inconscio nei sogni è proprio un sintomo, è legato alla sessualità, quindi sì. Bisogna poi intravedere se l'acqua è vista limpida, sporca, certo. Il modo in cui tu ti approcci all'acqua, però è il significato di sessualità, come vivi sì. La tua sessualità, insomma. Certo, beh, del resto anche nell'immaginario, se pensiamo che anche quando non abbiamo ancora una coscienza siamo nell'acqua, cioè siamo nel liquido amniotico. Sì, noi quindi, nasciamo proprio nell'acqua. E noi nasciamo nell'acqua. Ti vedo pasticciare intorno al nostro ricevitore di SMS. Eh sì, è arrivato un messaggio e ci scrivono: quindi è nata un po' così, come Manamanà. Esatto. È nata sì, come Manamanà. Come Manamanà. Esattamente, proprio così. Però diciamo che lo spessore è un pochettino diverso. Sì, sì, assolutamente. Diciamo però, che senza tanto nulla, di cappello, cioè, senza nulla togliere a Manamanà, per carità. Però esattamente, lo spessore è quello. A volte anche noi giustifichiamo in maniera così, con dei motivi futili, le nostre superstizioni, e a questo punto potete scriverle al 333-180-9494 per così comunicare con la vostra coppia di lunghi allo Special Twice, che la stanno tenendo lunga perché ci ascoltiamo anche te. Sì. Ma cosa ha fatto oggi Elisa? Prima di venire in radio, cos'hai? Hai preso l'autobus? Beh, sì, sì, con molta calma, mi sono ascoltata un po' di musica, ma con molta calma, sì, sì, sì, sì. Perché il ritmo è questo di Take Five, è qualcosa assolutamente dissuadente, anche se casuale, ma casuale con una grande perfezione. È il momento di mettere insieme tutti gli elementi, da Dave Brubeck, Paul Desmond e il Dave Brubeck Quartet stesso con Take Five. Andiamo a qualcosa di più movimentato, ma allo stesso tempo qualcosa di importante per quanto riguarda l'easy listening in ambito di black music. Hanno dimenticato l'acqua, ma gli elementi qua ci sono. Ah, tutti. Ci sono tutti: terra, vento e fuoco. E sai perché? Perché il fondatore Maurice White era del Sagittario. E il Sagittario è un segno di fuoco. Essendo però anche influenzato dalla terra e dall'aria, lui ha voluto mettere tutti questi elementi tranne l'acqua, perché non c'entrava niente con lui. Ma sì, dai, in fondo diciamo che è stata una scelta fortunata, perché sono saltati fuori gli Earth. Wind and fire. Vedi, poi ascoltare Take Five uno si così rimane legato a queste sonorità estremamente eteree, si confonde e non sbaglia anche a dire il nome degli Earth, Wind and Fire. Non sbagliamoci però ad ascoltare You Can't Hide Love. Restate sui 103.1. Torniamo insieme su Radio Città Fujiko, il 103.1, lo Special Twice, uno speciale 5 elementi, il quinto l'abbiamo messo noi, 3 solamente li hanno messi gli Earth, Wind and Fire, tralasciando l'acqua volutamente, Earth, Wind and Fire appunto. Salutiamo intanto Vittorione che ha scritto facendomi una critica: caro Willy, non ti arrivano i Doors perché hai le orecchie foderate di jazz. Caro Vittorio, ne sono fiero di avere le orecchie foderate di jazz, anzi ben venga. E poi ci scrive anche... ci scrivono Ale Franco dicendo: io non sono superstiziosa, non faccio mai nulla né di martedì né di venerdì, ho un cornetto rosso dietro la porta e porto un sacchetto di sale nella borsa. Io non ci credo, però non si sa mai. E se magari un gatto nero attraversa la strada, aspetto che passi un altro, mi fermo e poi dopo aspetto che passi. Però è così, alla fine giustifichiamo in questo modo, eh no? Sì, diciamo vabbè, non, anche se non vuol dire niente, alla fine farlo non mi costa nulla, quindi chissà. Perché? Magari non è vero ma ci credo. Come dicevo, una battuta, visto che io e te siamo dei gemelli, ne approfitto per dirla: io non credo nell'oroscopo, anche perché i gemelli non sono così superstiziosi. È vero, in effetti è così, ma noi gemelli siamo un segno strano, siamo un segno d'aria, sì. Ma dipende molto anche dal nostro ascendente, come poi complementiamo il nostro carattere. Io proprio le ho prese tutte perché sono aria su aria, quindi sono acquario, volo. È per quello che le orecchie foderate di jazz così, sì, si alzano i plani con calma, sì, sopra questi splendidi standard fra Sonny Rollins, John Coltrane, Charlie Parker e sì, così io svolazzo come Dumbo un po'. Sì, esatto. Grazie al vento, il vento che rappresenta invece il mondo interiore, una trasformazione, poi anche qui può essere una dolce, leggiadra brezza come un tornado. Dipende, anche qui l'aria può essere docile, ma quanto cattiva, insomma. Eh beh sì, se si scatena quando ci arrabbiamo. La natura, insomma, si vede che ci può elementi. Aiutare come travolgere. Assolutamente, noi proseguiamo con la nostra playlist curata da Elisa Iacobucci in grande parte, come in questo momento, e un grandissimo del blues sta venendo a farci visita e tu ci devi spiegare perché hai voluto inserire questo elemento all'interno degli elementi. Lui non poteva mancare, Johnny Hooker, con un boom boom boom che è proprio il richiamo della terra, cioè mi sa proprio un qualcosa di primordiale, come al suo sound che poi dà appunto adito a tutto il resto, e quindi ascoltiamoci questo battito della terra. Restate con noi, 103.1. Let all your feet take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me. That baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Let all my feet how, how, how, how. Talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. Now, baby. io ricordo a Vittorione, se è quel Vittorio che dico io, non si sa mai, potrei sbagliarmi come persona, ma indubbiamente questa affermazione però è azzeccata, quindi la rivolgo a tutti i Vittori e le Vittorie del mondo, dal blues nasce tutto. Dal blues nasce tutto, e ragazzi. Quindi, se... E questo è un elemento primordiale. È assolutamente primordiale, è un sound così, non puoi non apprezzarlo, non puoi non muovere le natiche. Sì, assolutamente sì, nonostante si commistionasse fra una malinconia o una tristezza voluta e controllata, chiaramente, perché i periodi non erano certamente tra i migliori quando è stato scritto, soprattutto per gli afroamericani, queste ritmiche e queste melodie. Però indubbiamente dopo, con la crescita, col famoso rhythm blues e poi dopo anche con il rock, con l'affinamento con il soul. Ma infatti abbiamo messo i Beatles, ma gli stessi Rolling Stones andarono in America. I Rolling Stones assolutamente blues. Assolutamente, tutto nasce proprio da lì e poi si evolve. Il povero Brian Jones insegnò uno per uno a suonare l'armonica. Quindi, insomma, poveretto, ha fatto la fine che ha fatto, ma ha lasciato della grandissima musica, nonostante, come ha ricordato Vittorio, io non sono un rockettaro, però Rolling Stones per me sono eccezionali, qualcosa di seminale e importantissimo all'interno del mondo della musica. Ascolta Elisa, siccome siamo stati, tra virgolette, non dico defraudati perché è una parola grossa, però un po' siamo stati di ispirazione a chi ha fatto un'altra forma dell'acqua con questa noi andiamo a intercettare un pochettino e possiamo fare anche noi l'angolino delle marchette. Sì, volendo. Vogliamo fare l'angolino delle marchette. So dove vuoi andare a parare. Ok, allora cominciamo a parare te. Io dovevo iniziare? Il 23 novembre. Il 23 novembre potete fare una spesa speciale, perché se venite al centro Andrea Costa potete trovare la vostra coppia di lunghi dello Special Twice in diretta. Potete fare una spesa e partecipare anche a una bella caccia al tesoro per vincere fantastici premi. E quindi venite gente, accorrete. Ricchi premi e Cotillon. Invece non ci saranno ricchi premi, ma una presentazione, un'esportazione del nostro format Special Twice fuori sabato 7 dicembre al L'Agua, diretta con DJ Set, con William Piana e Elisa Iacobucci, in via Saragozza 63. Un pomeriggio insieme, per così rimanere spensierati fino alla sera, sbevazzare un po', ascoltare buona musica. Ascoltare buona musica. Magari abbiamo pensato che lo Special Twice potrebbe essere un format che può essere esportato. E visto anche che ci arrivano messaggi del tipo: dove possiamo andare a ballare un po' di funk? Allora venite, così ve lo facciamo ballare noi. Esatto, assolutamente. 333-180-94 94, chiedeteci assolutamente dove si può venire a ballare un po' di funky, che noi vi chiamiamo a vedere la coppia di lunghi, e sicuramente il buon funky non manca. 11:53 minuti, vicino all'ultimo stacco pubblicitario per quanto riguarda la mattina, prima del GR a cura del nostro direttore Alessandro Canella, che salutiamo. Ciao, ovviamente. Alessandro, dobbiamo tenerlo buono, perché sai che lui è un attimo poi. Sì, che poi se non trova poi le cose sue quando entra inizia a sclerare. E questo è giustamente. Allora si prosegue con gli elementi in questo caso che si commistionano, ma che prendono una forma che dal titolo anche la nostra trasmissione, cioè quella dell'acqua. L'acqua con una grande Marlena. Show. Questa volta non l'ho detto, così ho tolto il problema, con Let's Wade in the Water. Dopo andiamo in pubblicità. Sì, rimanete con noi, 103.1. Come rientriamo sui 103.1 con Year. Stiamo così facendo un piccolo percorso di elementi basilari, non sono di chimica ma terrestri universali. E di follia. E di follia soprattutto. Abbiamo la terra, l'acqua, il fuoco, l'acqua, e il quinto elemento non è la quintessenza o l'etere, ma è appunto la musica, il nostro ede, la radio. E la radio, diciamolo. Questi invece erano gli Air, dal loro disco Love numero 2. Abbiamo ascoltato questa facilissima ma alquanto gradevole Sing Sang Sung, anche impronunciabile per chi è bolognese come me, con tutte queste sì. Esce Air, non come l'aria ma come i capelli. Esatto, noto musical, il noto musical, sì, fricchettone. Esatto, peace and love, assolutamente. 333-180-9494. Intanto che stiamo impastando gli elementi principali, abbiamo dato spazio per arrivare all'aria, che è anche l'elemento che è di base al nostro segno, cioè i gemelli mio e di Elisa. C'è qualche annetto di differenza, ma questo non è importante per gli astri. Quando sono gli astri, quando sono, basta il mese, tutto, poi l'anno. Quando c'è la salute, c'è tutto. Quando sono gli astri, c'è tutto. Allora, tradizione, elementi archè, gli archetipi, no? Quindi le sì, origini. Le origini, l'aria è anche qui un elemento, come dicevamo prima, che può sfiorarti, accarezzarti il viso, come travolgerti, quindi può dare animo al fuoco. Eh sì, o spegnerlo. O spegnerlo. Ma infatti gli elementi fuoco sono... Fuoco fa tanto il prepotente con me, ma poi non sa che io ma infatti ognuno è legato all'altro e si concatena, e uno non può vivere senza l'altro. Infatti anche il fuoco, se non c'è ossigeno, si spegne. Eh sì, senti un po' cosa diceva Platone. Così è l'aria. Vi sono le varietà più brillanti, che chiamiamo etere, quelle più sporche, che noi chiamiamo nebbia e tenebre, e altri tipi per i quali non abbiamo alcun nome. Della serie e altro. Vedi la dicitura sotto altro. E altro, esatto. Per cui diciamo che quelle sporche che noi chiamiamo nebbia e tenebre, noi ne aggiungiamo altre. Smog, inquinamento, CO2. Beh, caro Platone, purtroppo i tempi sono cambiati, ma probabilmente ai suoi non c'erano tutte queste problematiche. Ah no, beh, guarda, una cosa positiva è che possiamo vedere tramonti migliori, perché quando il pulviscolo si abbassa, il sole, colpendo ovviamente i raggi, la parte più bassa, è proprio il pulviscolo che dà il colore rosso. E quindi lo smog ci dà questi stramonti stratosferici con queste macchie rosse, rosa, viola. Eh sì, ma guardate un po' che brava la mia Elisa, che ha fatto un collegamento perfetto col sole. Perché sta arrivando. Per resto è uscito anche un po' di sole qua alle mie spalle. Ma ancora meglio, lo possono portare i Beatles. Sì, allora ascoltiamoci Here Comes the Sun, questo brano speciale che ha anche una bella curiosità che poi vi diremo. Più tardi. Here comes the sun, I say, it's alright. anche per uno nato a Pane, Motown, Blue Note, Cool Jazz come me, questa canzone mi commuove. Sì, le tue orecchie si liberano da ogni fodera. Sì, vengono completamente sfoderate da questo brano bellissimo. Poi vabbè, mi mette anche di buon umore, insomma, qualcosa sì, di veramente etereo. E poi sentire questo fruscio da vinile è ancora sì, più bello. Perché abbiamo portato il vinile di questo bellissimo disco, i grandissimi Beatles, ovviamente, dietro i quali vi sono leggende infinite. Anche di quello, se iniziamo a parlare, wow. No, non ci bastano due ore del nostro special twist di certo, ma una cosa carina la vorrei dire, se posso. Devi. Questa canzone è stata scelta da Carl Sagan, che era appunto un astronomo, e voleva proporla per inserirla all'interno della sonda spaziale Voyager del 77, perché voleva, nel caso in cui si potesse incontrare una entità extraterrestre, far conoscere la nostra umanità con questo brano. Ovviamente i Beatles erano entusiasti all'idea, non avendo però il copyright sui propri diritti, non hanno potuto concedere questo brano, e quindi è andata persa questa occasione. Però immagina un extraterrestre che incontra una sonda spaziale con le note di Carlos de Sound sotto. Beh, dice, questi hanno un grande gusto. Sì. Che bel biglietto da visita che abbiamo preparato per i nostri ET eventuali. Ma dietro i Beatles si nascondono misteri molto terreni, ma che vanno anche in altre dimensioni. Ad esempio, lo sapevate, ma i più appassionati sicuramente sì, che si pensa che Paul McCartney sia scomparso in seguito a un tragico incidente stradale. Ma vuoi un sottofondo da ultimo minuto? Sì, sì, paura. Paura, ma questo attraversamento, cosa c'è sotto? Allora, tu devi sapere, cara Elisa, che in questo disco che ho per le mani, Abbey Road storico, vi sono i Beatles che attraversano la strada in maniera esattamente e perfettamente identica, tranne che in una situazione, cioè quella che riguarda Paul McCartney, evidentemente scomparso per loro. Mette avanti il piede destro, a differenza di tutti gli altri che stanno mettendo avanti il sinistro. Questo vuol dire, io sono in un'altra dimensione, sono diverso in questo momento da voi, è l'unico che sta fumando una sigaretta, la sigaretta del condannato a morte. Ringo Starr dietro rappresenta il corteo, lo stesso defunto Paul McCartney è in mezzo. Davanti abbiamo Paul McCartney completamente vestito di nero, l'impresario delle pompe funebri e il più spirituale, quello che deve officiare il rito, John Lennon come un santone vestito completamente di bianco. La strada si staglia con automobili alquanto improbabili, soprattutto nelle targhe. Una nello specifico colpisce la nostra immaginazione: un maggiolino bianco, un Volkswagen, che guarda caso come targa ha come numeri inspiegabilmente IF 28, tradotto in italiano SE 28. Se Paul McCartney in questo momento fosse ancora tra noi, avrebbe 28 anni. L'ho fatto abbastanza, sì, abbastanza sì, fatto. Il tono di voce era giusto. Sto andando bene. Prossimo morto sarà. A parte che noi ci stiamo scherzando sopra, anche perché, diciamo la verità, ci sa che è una leggenda questa. Sì, dai, un po' come Elvis Presley, che in realtà è vive vegeto alle Hawaii, in mezzo al mondo exotica, con le sue hawaianine, con i cocktail in mano, con i tiki, con le statuette dei tiki. Però mistero, in realtà, di leggende ne sono state, diciamo così. Beh sì, poi i Beatles, essendo così tanto famosi, più di Gesù in tutto il mondo, loro detto, dicevano di essere, sì, sì, volevano anche crediamo. Evocare il demonio. Mandando al contrario un brano, esatto. Vabbè, però ci possiamo credere, perché davvero sono nel mondo in assoluto il gruppo che ha venduto più dischi. Eh sì. E il più anche conosciuto, un po' come famosi come la Coca-Cola, sono ovunque e tutti sanno che cos'è. Sì, però canzoni bellissime e meravigliose, coppia Lennon-McCartney. In questo caso Here Come the Sun però la scrisse George Harrison. In un pomeriggio splendidamente assolato va a trovare Eric Clapton nella sua villa, si porta dietro solamente la chitarra e gli dice: guarda, con un pomeriggio così oggi di andare in studio di registrazione proprio non ne ho assolutamente voglia, e poi non dobbiamo essere tristi in un pomeriggio così a batterci con il lavoro. Se di lavoro potevano parlare, sì, quei due lì, no? Esatto. Come se fossero due all'Ilva, esatto. Hai capito come stanno per andare all'Ilva, no? Siamo qui in una villa, beviamoci un cocktail e senti, sono ispirato, scriverò questa canzone. Nasce Here Come the Sun, sì, sotto i raggi di questo caldo sole, sì, sì, di questa primavera, diciamo così, un po' sbarazzina. Fa nascere anche qui la casualità, fa l'uomo ladro, non c'entra niente, come detto. La casualità fa l'uomo fortunato in fortunato caso. Fortunato come vedere un bel arcobaleno dopo la tempesta, quindi dopo l'acqua e la pioggia, i colori, l'arcobaleno in mezzo al cielo. E un uomo che, diciamo, ha rappresentato l'ecologia giamaicana, possiamo dire, sì, sì, la coltivazione. La coltivazione, esatto. Poi chi vuole capire capisca. E allora ascoltatevi questa versione fantastica di Somewhere Over the Rainbow di Bob Marley. State con noi, 103.1. Mashup tra Wonderful World e Over the Rainbow, che ogni volta che ascolto mi scende una lacrimuccia anche lei, ma sono impedito a piangere in quest'ultimo tra Here Come the Sun. Sono proprio un uomo di picaglia tenera, come si suol dire a Bologna. Allora possiamo ricordare anche il Mago di Oz. Accidenti, visto che hai girato il coltello nella piaga dei miei sentimenti. Io sono un grandissimo ammiratore del Mago di Oz, fiaba scritta nel 1900, pensa un po', sì. Dietro si celano grandi significati per quanto tuttora, riguarda ovviamente. Tuttora, sì, ma anche per la, pensa che nasce come critica politica addirittura, sì, perché adesso non ricordo precisamente i motivi e i principi, ma era critica politica economica all'interno degli Stati Uniti d'America, e poi assolutamente dopo, attuale, sì, tra l'altro molto attuale, e poi soprattutto tutto dopo viene sviluppato come introspezione per ogni persona. Io ad esempio sarei esattamente il leone senza coraggio, proprio. Sì, però poi c'era l'uomo di latta che cercava il cuore. Spaventapasseri, esatto, ognuno cercava una parte della propria umanità, sì, diciamo. Sì, lo spaventapasseri che cercava il cervello, l'uomo di latta e il Dorothy cuore. Che cercava casa, Dorothy voleva tornare a casa, sì. Nel film comunque, quando lei si risveglia che è un sogno, vede il leoncino di peluche da una parte, lo spaventapasseri, si dice ma che viaggio mi sono fatto, ma sai che le due fiabe che a me piacciono di più sono Alice di... brava, infatti, brava, vabbè, sì. Ma se leggi il libro però è veramente, cioè, era uno scrittore sostanze che l'hanno poi aiutato, no, anche dalla dubbia moralità. Sì, sì, dalla perché, dubbia moralità. Diciamo che poi la parte fiabesca dedicata ai bambini è stata un po' censurata Sì, cose. Di dubbia moralità, assolutamente. Ma noi potremmo andare avanti. Sono solo le 12:19. Andiamo avanti. E il signore Zonico era intento a cucinare quando. Quando ormai la forma dell'acqua ce la siamo bevuta. Insieme a tutti gli elementi: l'aria, la terra, il fuoco e anche l'acqua, chiaramente. In attesa dell'informazione. Alle 12:30 su Radio Città Fujiko vi dedichiamo ancora un po' di musica, ricordando che adesso ci siamo ogni venerdì dalle 10:30 alle 12:30. William Piana e Elisa Iacobucci. Superstition, abbiamo parlato anche di tradizione. Superstizione, potevamo non mettere il grande Stevie Wonder, Superstition. Alla bella stagione, superstiziosamente legati al sole, all'estate, però, cara Elisa, ti devo confessare una cosa: fra i mesi considerati freddi, considerati di annuncio per una stagione sicuramente più rigida, novembre è il mio preferito. Ah, quindi un sì. Autunno inoltrato spesso anche già con la neve. No, oddio, a novembre la neve proprio no, io la neve la odio, per me è lo sterco del io lo chiamo lo sterco del demonio. Ha detto... sì, per me la neve è lo sterco del demonio, io la odio, no, in ogni dai, forma, a meno che non faccia l'asse di ghiaccio pericolose. È vero. Visto che io ogni volta non si sa perché, forse è proprio il problema del fatto che il busto è più corto delle gambe, il mio bacino, e non ho l'equilibrio come l'uomo vitruviano, che se punti il compasso nel mio ombelico e fai un cerchio, no, le gambe bucano sempre fuori come nel letto, capito? Io do sempre un paragone, spesso per gioco, a un animale, a ogni amico, tu sei un fenicottero. Io sono un fenicottero perché sì, ho queste gambe che poi magari sono un po' impacciate perché essendo un po' con un equilibrio diverso. Però potresti restare su una gamba sola, è presente che loro spesso sì. E sì, poi ricordiamo che il fenicottero in inglese si dice flamingo, che anche lì molto flamingo, sì, ricorda molto un po' esotico. Sì, flamingo, pink flamingo. Sì, allora si vede proprio che siamo arrivati alla fine. Sì. Ed è il momento di augurare buon appetito e buon weekend e poi fare degli altri auguri. Sì, vogliamo fare gli auguri ad Andrea Folli, che oggi compra gli anni, tanti auguri, e ci vediamo presto perché ci vedremo per l'incontro al Centro della Costa, che è il 23, tutti insieme. Venite anche voi a venire a fare una spesa un po' speciale con una musica che vi accompagna insieme alla caccia al tesoro e tanti ricchi premi. A proposito di marchette, tanti auguri Andrea Folli. Capito? Così l'abbiamo messo dentro anche all'angolo di questa realtà che accompagna lo Special Twice. Noi vi accompagniamo a pranzo, introduciamo il GR che arriva fra poco, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo con uno speciale. Ritornano i generi, ritornano le sonorità più fine a se stesse, e parleremo, chissà, probabilmente del grande percorso all'interno della musica soul. Sì, chissà, ma sentite già il sottofondo. Senti che bella. Sì, perché abbiamo parlato dei cinque elementi, loro si chiamano The Fifth Dimension, cioè una quinta dimensione. Ma guardate che bella playlist a tema che abbiamo fatto. Abbiamo parlato anche di Hair. Esatto, c'è perfetto, tutto. Manca solamente niente. Un bel piatto di tagliatelle. Oh sì, Elisa. Ci siamo. Tocca salutare, è stato bello. Ciao. Buon appetito davvero a tutti. Buon appetito, buon weekend. Ciao a tutti. Ciao.